versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, siamo a giovedì 10 di luglio, 16:35 e anzi 36 minuti primi. Santa Rufina, chi si chiama Rufina festeggia, si abbia i nostri auguri. Se volete chiamare oggi all'800 24 00 24 e 349 238 6666 per i messaggi, il tema della puntata è l'autonomia speciale delle regioni, in particolare la Sicilia, perché oggi parleremo soprattutto, se non quasi solo, della Sicilia. Quindi a maggior ragione, se siete siciliani, diteci, la volete difendere, ha ancora un senso, non ha nessun senso? Ma il tema riguarda in generale l'autonomia speciale. Perché? Perché nel testo di riforma, nel titolo quinto, che sta iniziando il suo convulso iter in Parlamento, convulso perché nel frattempo è saltato l'accordo, ci ha informato Calderoli, tra la destra e il PD, e quindi si vedrà direttamente in aula, è saltato l'accordo per le modalità di elezione dei grandi elettori regionali del Presidente della Repubblica, che dovrebbero essere individuati direttamente dai capigruppi, dice il PD, ma non entriamo adesso in questo genere di cose. Il problema è l'autonomia speciale, perché in questo testo di riforma del titolo quinto l'autonomia speciale, come dice, riformiamo la Costituzione e poi confermiamo tutto così com'è? Risposta sì, viene confermato tutto così com'è, poteri, competenze, bilanci delle regioni dell'autonomia speciale. Per me, ve lo dico subito, è una solenne fesseria, una presa per i fondelli, perché le ragioni storiche di quell'autonomia non ci sono più, e perché l'abbiamo visto alla prova dei fatti che cosa diavolo vuol dire quell'autonomia. Ne abbiamo parlato mille volte, i numeri della Sicilia, del suo bilancio, di come viene gestita e così via, ma guardate che non mi fa velo il pensarla così perché la Sicilia, perché per me vale idem verso quella enorme congeria di maxi spesa pubblica che è la Valle d'Aosta, per essere chiari, quindi io ne faccio un giudizio comune, però magari ci sono opinioni diverse, voi penserete, qualcuno di voi, che invece va difesa, e allora intervenite, telefonateci e mandateci messaggi. Però oggi ho deciso di fare un invito a tutti voi in ascolto, e l'invito è a leggere d'un fiato, perché così si legge questo libro di cui parliamo oggi, le 206 pagine di un libro che si intitola, titolo un po' abrasivo, Bottanissima Sicilia, dall'autonomia a crocetta tutta una rovina. E se qualcuno di voi non ha ancora capito chi è l'autore e dovesse pensare che è un nordico che ha pregiudizi verso la Sicilia e verso il sud, sbagliato, è un sicilianissimo innamorato della sua terra, forsennatamente innamorato della sua terra, da sempre, e che però ha il coraggio di essere tagliente. Non solo scrive in un modo che a me piace molto, perché è anche molto letterario, però scrive con la passione, l'intercalare, il linguaggio anche della sua terra, e però è capace di dire le cose tagliandole come gli angoli delle pietre, quelle che reggono poi le strutture. E l'inizio di questo libro è un appello chiaro, dicendo la politica lo capisca, Renzi se del caso, l'autonomia siciliana va cancellata, qui ci vuole un commissario perché non se ne esce. E tutto il libro descrive, non è un libro di politica, di politologia o di economia finanziaria, descrive con una prosa fantastica il procedere dal Mastro Don Gesualdo della casta Lesarde, cioè Lombardo, due presidenti fa, a Crocetta, il presidente di adesso della Sicilia, entrambi in realtà espressione della destra, perché fu la destra a eleggerli, e che poi diventano in realtà degli emblemi a parole dell'antimafia a sinistra, con i professionisti dell'antimafia a sinistra tipo Beppe Lumia, che sposano i governatori pro tempore, come si suol dire. E capitolo per capitolo l'autore in maniera molto cruda e tagliente, però interviene in tantissimi guai irrisolti, per i quali in realtà l'autonomia, scudo della diversità siciliana, della sua indipendenza, diventa una presa per i fondelli, in primis dei siciliani costretti a vivere in un deserto di economia vera, di impresa, eccetera, eccetera. È la fogna della politica, scrive l'autore. la Sicilia così come è stata ridotta da questa sbagliata concezione dell'autonomia. Quindi bisogna ricominciare da capo. L'autore è Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, scrittore, l'autore di questo libro come di tante altre cose belle. Io ce l'ho avuto compagno di banco tantissimi anni fa in un giornale e devo dire anche gli voglio bene, quindi io, siccome non mi nascondo di fronte ai miei conflitti di interesse, vi chiedo di leggere questo libro, però non certo perché gli voglio bene io, che non vuol dire niente, ma perché è un libro straordinario. Grazie Pietrangelo di essere qui con noi, di aver scritto questa roba. Grazie a te. Senti un po', perché esiti addirittura a scrivere il nome di Lombardo e nel suo capitolo lo chiami il Mastro Don Gesualdo? Perché immagino che questo libro possa essere preso in mano tra 2, tra 3 anni, mi auguro anche tra 10, che possa restare negli archivi, e giusto perché c'è una forma di pietas, so che comunque è un uomo sconfitto ed è un uomo anche forse troppo piccolo rispetto agli eventi che hanno travolto la sua avventura, sarebbe complicato poi evocarlo per nome e cognome. Invece la tipologia esiste, non esistono più individui, esistono i tipi, e quello che lui ha fatto non è stato altro che ripetere il meccanismo di un Mastro Don Gesualdo, cioè di colui il quale è attaccato alla roba e non avendone proprietà le ha quantificate in quella che è stata la trappola del consenso, delle clientele, e lì lo immagino che possa essere riconosciuto immediatamente senza ricorrere né al riportino né ai baffetti. Senti, tu dici a Crocetta gliene perdonano di tante, non solo per chi dimentico dell'operazione che apportò alla sua elezione, un'operazione che dici fu uno scherzo in realtà, che viene da uno degli ex protagonisti di Forza Italia, per così dire, no? da sempre Micichè, certo. Però dimentichi di quelli, diventa una giunta che in realtà si incardina una specie di rivoluzione, sì. E di questa rivoluzione tu fai a pezzi molti miti, un episodio tra tutti il MUOS, gli impianti quelli per il controllo a distanza dei droni militari americani che dovrebbero essere impiantati a Niscemi, la sceneggiata ostilissima al MUOS che fa Crocetta durante un giorno in cui c'è l'ambasciatore americano, tranne il fatto che poi cambia drasticamente idea, dice no, va fatto, è come se non avessi detto nulla. Perché a Crocetta secondo te si perdona così tanto? Perché ha costruito l'alibi della propria inefficienza, della propria incapacità con l'omertà del politicamente corretto, perché chiunque osi criticarlo si becca come minimo ben 3 insulti. Il primo, che poi è una sorta di gradazione, il primo è quello di essere omofobi, perché lui si fa schermo della sua identità sessuale e immediatamente la frappone tra chi, tra il suo operato e la critica, osa muoverla nei suoi confronti. Il secondo è quello di essere un mafioso, perché chiunque osi contrastarlo nel dibattito, nell'esercizio critico, non può che essere mafioso, essendosi lui creato questa patina di invincibile paladino del bene. E l'ultima viene da ridere, e io sono sicuro che ti divertirà tantissimo: chiunque chieda il commissariamento, lui lo denuncerà per attentato alla Costituzione. Eh certo, perché in Costituzione ci sta scritto, e quindi dobbiamo tenerci anche alla Costituzione, quando la Costituzione di fatto poi ha prodotto queste cose qua. E infatti. Però, non c'è anche, perdonami, un problema di fondo, cioè, perché poi moltissimi siciliani, diciamo così, delle professioni, delle cose, quando io provo a dire ma la vogliamo abolire questa autonomia, tranne alcuni imprenditori recentemente che si sono d'accordo col tuo appello, molti dicono però l'autonomia che c'entra, non confondiamo chi ne ha fatto un uso da porco rispetto al valore da difendere. Ma sai, il problema è tutto qui, intanto nell'idea che l'autonomia possa dare delle garanzie alle specificità. E allora, se ci fossero, magari. Andiamo nel concreto. Mi arriva la notizia della chiusura di tantissime aziende che in Sicilia producevano i succhi d'arancio. Ora, ne convieni che l'idea del succo d'arancia in Sicilia sia alla base di tutto, no? Ed è un po' come immaginare se improvvisamente in Francia non si riesca più a produrre lo champagne. Ed è come immaginare che tutte le forme di specificità cercando delle garanzie, attraverso l'autonomia a maggior ragione dovrebbero essere decise, dovrebbero essere protette, dovrebbero essere custodite. Eppure tutto questo non succede. Sai che cosa mi ha raccontato un amico, un imprenditore veneto? Che se n'era andato a Kyoto, aveva scoperto dal mercato di Kyoto che un'arancia veniva venduta corrispondeva a 12 euro. Bene, ha pensato di tornare immediatamente in Italia, voleva fare un volo charter commerciale che portasse le arance direttamente dalla Sicilia a Kyoto. Beh, non c'è stato verso di poter realizzare tutto ciò. E il primo ostacolo lui lo trovò proprio nell'ambito degli uffici dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Però, primo fondamentale ostacolo. Dov'è questa autonomia? Cosa serve se lo stesso Crocetta fino a qualche giorno fa con Padoan che dir si voglia ha mercanteggiato il contentino di 500 milioni di euro purché la Sicilia rinunci a tutte le prerogative? Allora questa benedetta autonomia che cosa serve? Soltanto a mercanteggiare? In realtà, io credo sia necessario ricordarlo agli ascoltatori, questa autonomia viene immediatamente dopo la stagione separatista, viene immediatamente dopo una stagione di violenze e viene immediatamente dopo l'unica vera trattativa Stato-mafia, ed è bene che si sappia, perché una cosa è l'indipendentismo di un Bobby Sands in Irlanda, una cosa, se permettete, è invece il separatismo nelle mani di un bandito come Salvatore Giuliano. Come Salvatore Giuliano. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:48, primi 40 secondi. Stiamo parlando dell'autonomia speciale confermata tutto come prima, anche nel testo di riforma del titolo quinto su cui è saltato l'accordo stamattina. Secondo me un incomprensibile errore, ripeto, proprio incomprensibile errore alla luce di tanti decenni di che cosa ha significato davvero l'autonomia speciale. Ha appena ricordato l'ospite che abbiamo qui con noi, e leggete il suo libro Buttanissima Sicilia, dall'autonomia Crocetta tutta una rovina, cioè Pietrangelo Buttafuoco, di che cosa fu figlio l'autonomia speciale siciliana, del separatismo del Levis e dell'unica vera trattativa Stato-mafia che si fece ai tempi del banditismo siciliano, così ha detto. Guardate che anche le hanno mandato sms alcuni ascoltatori di regioni a statuto speciale del nord, anche le ragioni storiche che portarono alle province autonome di Trento e Bolzano, per dirla tutta, cioè l'eredità irrisolta delle minoranze etniche alla luce del secondo conflitto mondiale, le responsabilità dell'Italia, eccetera eccetera, anche quelle a mio giudizio sono totalmente superate dalla storia, a parte che si sono tradotte in queste quote etniche nella pubblica amministrazione con effetti, voglio dire, antistorici, che sono anti-italiani per certi versi, ma non lo dico nazionalitariamente, lo dico perché non ha più senso neanche lì, e non ha senso soprattutto, lo dico come contribuente italiano, no? Che da quelle parti ci siano concentrate di spesa pubblica che il resto d'Italia si può scordare. Non mi dite che il principio è che lì sanno amministrare bene, perché io non lo metto in discussione, ma il problema è che non si capisce il criterio della simmetria per cui in Val d'Aosta e in Trentino diamo le case con i denari pubblici ai giovani e nel resto d'Italia sono sbattuti per strada senza niente. Cioè, io non riesco a concepirla. In Sicilia oltretutto c'è tutto ciò di cui si parla nel libro di oggi. Tu a un certo punto, Pietrangelo, scrivi: se non proprio un Cesare Mori, un prefetto che arrivi e metta fine ai mercanti asserragliati nel tempio della lotta alla mafia, almeno un commissario, quello sì, in Sicilia ci vuole e serve, se non subito, subitissimo. E come quello, come Mori, si faccia forte di un principio: far tornare lo Stato in Sicilia. Avere carta bianca è come quello che abbiamo mandato pieno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, avere il potere di cambiare le leggi se queste, sporche per come si è infettata di mafia la legislazione derivata dallo Statuto Autonomo, non permettano il raggiungimento dell'unico necessario proposito: fare tornare lo Stato in Sicilia. Cosa vuol dire secondo te innanzitutto? Vuol dire che la Sicilia è una terra abbandonata, e io ti do le risposte sulla base di qualcosa che i tuoi ascoltatori possono capire, attraverso un esempio banale e semplice. Se Rimini, e stiamo parlando della Riviera Adriatica, è la prima industria dell'ospitalità turistica, perché Marzamemi non può esserlo o non riesce ad esserlo? Non riesce la Sicilia ad essere protagonista nella bellezza, nella storia, nella cultura? Perché i suoi musei e il patrimonio culturale e artistico, ben il 70% dell'intero patrimonio nazionale, è letteralmente dimenticato, se non abbandonato, se non invece ridotto ad un paravento ridicolo? E mi risulta, perché me lo ha raccontato, che Valerio Massimo Manfredi è uscito fuori con i capelli dritti dopo essere stato all'assessorato del patrimonio culturale e artistico in Sicilia per discutere del tempio G di Selinunte. Stiamo parlando di Selinunte, uno dei luoghi più belli e magnifici al mondo, una delle meraviglie nell'orbe terracqueo. Perché mai? Perché c'è una struttura a questo punto politica incrostata che non riesce più a tutelare un pezzo fondamentale nel Mediterraneo qual è la Sicilia, per farla diventare ciò che è? Prova a immaginare la Sicilia governata, amministrata, gestita, diretta con un'altra logica. E io lo dico in questi termini proprio perché i tuoi ascoltatori sanno perfettamente che la sostanza si accompagna a scelte di decisione. Siamo in uno stato di eccezione, siamo in un momento di emergenza e quindi è necessario, se non proprio un decisore, è necessario che si decida. Vedi, tu hai ricordato prima come nella discussione del titolo quinto Matteo Renzi abbia voluto ripercorrere errori madornali. Aveva la possibilità, giusto lui che starà per 20 anni ancora a governare in Italia, aveva la possibilità di governare perfino a cavallo, con l'estato a cavallo, se invece di adoperarsi nella farlocca e inutile cancellazione delle province avesse proceduto sulle regioni, avesse proceduto su queste macchine che non fanno altro che produrre malaffare, burocrazia, lentezza e soprattutto, e l'hai ricordato prima tu, sono perfino anti-italiane, sono perfino i focolai attraverso i quali si costruisce un impedimento, un ostacolo, perché poi vedi, Oscar, la verità è che le cose si decidono giorno dopo giorno nelle case degli italiani, affrontando la vita quotidiana, e allora bisogna spiegarsi perché mai in Sicilia, a maggior ragione in Sicilia, in ogni famiglia c'è un disoccupato. Perché mai in Sicilia, a maggior ragione in Sicilia, ai propri figli la gente non sogna altro pezzo di carta che un biglietto aereo per andare via? Allora perché mai in Sicilia, a maggior ragione in Sicilia, se c'è questa meravigliosa rivoluzione che ha portato Crocetta, non c'è altro che la desertificazione? Lo sai, Oscar, io conosco bene la mia terra, la amo profondamente, so perfettamente come si è ridotta ad essere una terra desolata, di solitudine. Ci sono interi paesi abbandonati, ci sono le case che vengono lasciate come se ci fosse stato un incendio improvviso e invece la gente se ne va via, non ci sono più i ragazzi, non c'è più la popolazione giovane, chiudono i licei, vengono accorpati non per semplificazione burocratica, ma perché non ci sono più gli studenti. Senti, ti faccio una domanda, perché c'è un pezzo del libro, nel passare in rassegna tante figure, a me è piaciuto tantissimo il capitolo dedicato a Piero Grasso, il presidente del Senato, ex magistrato, distinto da Ingroia e distinto da Caselli, diverse facce, per così dire, dell'essere magistrato in Sicilia antimafia, ci sono tantissimi capitoli molto, secondo me, scritti veramente con una bella mano, ma c'è una cosa che ti chiedo, visto che ci si appella giustamente a Renzi, se andiamo a vedere il PD siciliano, tu ti occupi in un capitolo di una figura che divide e spacca da sempre il PD siciliano, cioè quello di un comunistissimo da sempre, ennese, che crea divisioni nel partito, Mirello Cristofulli. Però l'esempio che ti faccio concreto è che il PD, quando poi a Palermo si è trattato di tirare le file, sempre a Luca Orlando ha dovuto mettersi in ginocchio perché li ha fatti a pezzi. Tu nel libro parli bene di Fava e Luca Orlando, distinguendo da altri della mafia, dell'antimafia, come li chiami tu, però lì il PD capace di interpretare la cosa vera renziana c'è o non c'è? Secondo me non c'è, almeno io non lo vedo, c'è? Ma io ho avuto modo di incontrare, di dialogare con molti di loro, Ho avuto un incontro con Faraone a Palermo, e Faraone sì. è il rappresentante dell'area renziana in Sicilia. Eppure ho potuto notare una cosa, che malgrado Renzi, malgrado il linguaggio di Renzi, su questo tema, sulla necessità di mettere mano al disastro Crocetta, che è per 100 volte superiore per esempio al disastro marino a Roma, ne ho ricavato risposte, diciamo, forlaniane. Quindi, insomma, bisogna forse prendere ancora coscienza. Io vi invito tutti, leggetelo davvero, Buttanissima Sicilia. Non c'entra niente la destra e la sinistra, sono arrivati, ma lo sapevo, un po' di messaggi su questo. Ah, ma che c'entra? Pietrangelo è di destra. Non è questione. L'autonomia e il disastro della Sicilia ci deve unire tutti. Continuate con la 24, appuntamento con me a domani.